Bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Dai, su, diamoci una mossa, non attardiamoci, è tempo della bufala in tavola e, a proposito di mossa, oggi impariamo le mosse giuste per restare sani, belli, giovani, scattanti e in salute. Mica male, no? Allora, il menù di oggi è molto ricco e vi riserverà tantissime sorprese. Che cosa ci manca per iniziare? Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare. Ci vorrebbe un amico. E noi l'amico, anzi l'amica ce l'abbiamo. E che amica! In linea con noi è tornata a trovarci la dottoressa Evelina Flachi, specialista in scienze dell'alimentazione. Dottoressa Flachi, buongiorno, finalmente bentornata. Grazie, buongiorno a tutti. Dottoressa Flachi, a proposito di mosse, ci sono 10 mosse anti-età. Questo è anche il titolo del libro che lei ha pubblicato con Cairo, perché, come diciamo sempre anche noi qui alla Bufala in Tavola, non è importante solo aggiungere anni alla vita, ma soprattutto qualità di vita a quegli anni. E, dottoressa Flachi, lei mi insegna che è meglio non perdere tempo. Chi ben comincia è a metà dell'opera, quindi bisogna iniziare a investire subito, direi. Non aspettare gli anta per poi correre ai ripari. È d'accordo? Certo, la vita si è allungata anche perché abbiamo maggiori possibilità di fare prevenzione. Quindi diamoci una mossa. Vede, diamoci 10 mosse. Del resto, dottoressa Flachi lo ha spiegato bene, l'OMS da tanto tempo, alla salute lo sappiamo, non è mancanza di malattia, ma è un insieme complesso di aspetti fisici, psicologici, sociali, emotivi. È una ricetta con tanti ingredienti. Per questo occorre, come si dice, lavorare, agire su tutta la linea, attività fisica, giusti comportamenti in cucina, ma anche dormire bene, gestire lo stress, ci vuole anche l'appagamento emotivo, l'allenamento intellettuale per mantenere giovane e scattante il nostro cervello. Questo è in sintesi un po' lo schema delle 10 mosse che, dottoressa Flachi, sono efficaci proprio perché sono compatibili con la nostra vita quotidiana, che, diciamo la verità, è già abbastanza complicatina, senza che ci aggiungiamo anche noi qualche cosa che in qualche modo ce la complica ulteriormente. Che ne dice, dottoressa? Certo, con il libro ho voluto proprio dare una facile linea da seguire, in modo da semplificare anche gli atteggiamenti, e si deve partire da alcune mosse che possono aiutarci negli anni ad arrivare in buona salute, ad affrontare la vecchiaia. Ecco, quindi se cominciamo col mangiare bene in modo sano, seguendo anche la nostra dieta mediterranea, possiamo già fare una mossa giusta nel nostro territorio. Quindi seguendo il termine dieta come stile di vita, non restrizione, perché col termine dieta si intende molto spesso la punizione e la restrizione calorica. No, la nostra dieta mediterranea, che è stata riconosciuta dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità, si basa su un equilibrio nutrizionale dai nostri cereali integrali, la verdura, la frutta, la carne, il pesce, ovviamente di qualità, e il nostro benefico olio extravergine d'oliva. Straordinario. straordinario, ecco. Un farmalimento, perché mangiare bene, dottoressa Flacchi, lo diciamo spesso qua alla Bufala in Tavola, è una straordinaria e salutare opportunità. Non è necessario mortificarsi, sentirsi in castigo, rinunciare, basta saper portare a tavola le cose giuste, ma nella quantità giusta e anche al momento giusto. Infatti una delle mosse che lei suggerisce è appunto modera le porzioni e suddividele nella giornata. Passando dalla teoria alla pratica, dottoressa Flacchi. Certo, cerchiamo di semplificarci la vita, magari non tutti abbiamo la bilancia sotto mano, ma poi non serve, perché se vogliamo dare una quantità giusta anche alla verdura, due pugni delle nostre mani corrispondono a una bella porzione di verdura cruda, circa 200-250 grammi. E un pugno di verdura strizzata è una buona porzione di verdura cotta. Il palmo della mano può diciamo interpretare i 120-140 grammi di carne o di pesce. Più l'abbiamo grande, vuol dire più abbiamo una maggiore esigenza di proteine. Poi due dita della mano in lungo possono interpretare una porzione di formaggio stagionato, una pallina da tennis e la frutta, una porzione di circa 150-200 grammi. Quindi possiamo imparare queste diciamo piccole regole. Anche gli spaghetti li possiamo identificare nel diametro di un tappo di bottiglia. Sono circa un etto, a seconda ovviamente. Magnifico. Spessore. Mi piace, dottoressa Flacchi, perché lei ci mette tutto a disposizione. Il palmo, eccolo qui. Il pugno, addirittura il tappo della bottiglia dell'acqua minerale che diventa un dosa spaghetti. Insomma, non possiamo assolutamente sbagliare. E poi tutte le ricette della nostra tradizione mediterranea. Ci fermiamo, facciamo una piccola pausa. Intanto ringrazio Roberta Frisani, che è in regia alla parte tecnica, e Laura Vanossi, che è in assistenza e in redazione. Stiamo prendendo appunti, dottoressa Flacchi, ma le mosse continuano. Restate con noi. La bufala in tavola. Se fossimo in grado di assicurare a ognuno la giusta dose di nutrimento e di esercizio fisico, elimineremmo la gran parte delle malattie. Ippocrate, IV secolo avanti Cristo. Beh, è davvero uno slogan perfetto per una campagna di prevenzione, modernissimo nei suoi 2000 anni, rivoluzionario nella sua semplicità. E Ippocrate, non a caso, il primo vero medico della storia, quello che ebbe l'intuizione e direi anche il coraggio di separare la medicina dalla religione, di considerare la malattia non come una punizione inflitta dagli dèi, ma piuttosto il prodotto dei fattori ambientali, quindi della dieta e delle abitudini di vita. E proprio di questo stiamo parlando oggi con la dottoressa Evelina Flacchi, specialista in scienze dell'alimentazione e autrice di 10 mosse anti-età. 10 mosse, dottoressa Flacchi, direi, per restare in salute e godersi la vita. Posso scrivere Certo. Questo sottotitolo in corsa? Certo. Allora, dottoressa Flacchi, c'è da considerare che ci sono persone che si sottopongono a diete continue senza averne bisogno, perché un conto è mangiare bene, un conto è mangiare meno o ridurre la dieta senza alcun criterio. Questa è una situazione che non porta a nulla. E allora, dottoressa Flacchi, aiutiamoli con due semplici mosse. Ad esempio, la prima è seguire la regola del 5. Certo, perché mangiare male vuol dire mangiare poco, come mangiare troppo, e distribuire anche male i propri pasti nella giornata. I 5 pasti nella giornata sono utili a mantenere un equilibrio nutrizionale, tenendo presente che dovremmo sempre pensare di fare una colazione da re, un pranzo da principe e una cena da povero in relazione alle nostre individuali esigenze e consumi, anche certo. Intellettuali, non solo fisici. Anche la prevenzione dei vari problemi di salute, dei più comuni, dalle problematiche cardiovascolari, il diabete e altro, dipendono da uno squilibrio nutrizionale. Quindi la distribuzione corretta dei passi nella giornata ci può aiutare ad evitare carenze, soprattutto, ma tenendo conto anche di moderare le porzioni, perché anche questo è importante, evitiamo poi gli eccessi. Quindi squilibrio sia in difetto che in eccesso. Ecco, dottoressa Flacchi, leggevo nel suo libro che assicurarsi le 5 porzioni ogni giorno di ortaggi, 2 di frutta e 3 di verdura... È essenziale naturalmente seguendo i colori, che sono sempre una buona indicazione. Più variamo i colori, più riusciamo a mettere nel piatto tutto quello che ci serve, ma soprattutto proprio perché queste 5 porzioni servono a mantenere un'alimentazione a forte azione antiossidante, cioè capace di combattere i radicali liberi che accumulandosi favoriscono l'invecchiamento e anche le malattie. Quindi è il 5, proprio questo sì. Numero che ci porta buono. Sì, infatti era il titolo del mio precedente libro e non potevo non inserire questi dati che sono validati scientificamente. Quindi non solo le 5 porzioni di frutta e verdura nella giornata, 2 di frutta e almeno 3 di verdura, ma anche la varietà dei colori. I 5 colori del benessere vanno dal bianco al blu viola, al giallo arancio, il rosso e il verde. Anche il bianco, che sembra un colore banale, fornisce delle sostanze importantissime, questi isocianati, gli alisolfuri, che prevengono addirittura la formazione dei trombi. Quindi aglio, cipolla, finocchio fanno bene, anche se sembrano, diciamo, un po' smortini, sono smorti, ma, ma ci fanno vivere a lungo. Brava, rispetto a un blu viola, per esempio, che conosciamo tutti ormai per le proprietà benefiche delle antocianine che questo colore rappresenta, certo, oltre alla vitamina C. Poi abbiamo il più famoso di tutti, qual è? Il giallo arancio, soprattutto in questo periodo. Sì, ma è più famoso da anni perché lo identifichiamo con la protezione della pelle, con i precursori della vitamina A, perché beta carotene, che questo colore rappresenta, non solo rafforza il nostro sistema immunitario, ma è anche benefico per mantenere il film idrolipidico dei nostri tessuti. Poi abbiamo il rosso, che è stato diciamo osannato per l'alta concentrazione di licopene, che è un altro carotenoide con proprietà antitumorali preventive, e addirittura questo licopene, rispetto a tanti altri minerali e vitamine, si concentra maggiormente con la cottura. Quindi il nostro pomodoro, anche cotto, andiamo di salsa di pomodoro, esatto. Buona. Poi, un po' 2 fogliette di basilico, che c'è il verde, perfetto. È un'antietà, un sughetto antietà, come vede il resto il verde, che per la presenza di clorofilla, di acido folico, è particolarmente prezioso per i problemi cardiovascolari, per l'omocisteina, ma anche in gravidanza. Quindi abbiamo una bella tavolozza di colori. Bello, mi piace. Va bene al palato e al nostro organismo. Un'altra indicazione importante, un'altra mossa, è bere il giusto e bere bene. Cosa significa, dottoressa Flacchi? Diciamo che le linee guida ci consigliano oggi di consumare almeno 2 litri di liquidi, di acqua nella giornata, e a maggior ragione con l'avanzare degli anni, perché si perde anche il senso della sete, no? Sì. Ma si rischia proprio la disidratazione, che è uno dei problemi dell'anziano, quando si va avanti negli anni. Oltretutto i liquidi li possiamo anche assumere dagli ortaggi, quindi non solo sotto forma di acqua, che magari molti non hanno voglia di bere con il passare degli anni, ma anche sotto forma, appunto, di ortaggi, di tisane. Quindi anche infusi, centrifugati. Quindi, certo. E poi il bicchiere di vino che nel modo giusto, scegliendolo di qualità, se non esistono particolari controindicazioni da parte del medico, può far bene. Noi donne ne potremmo assumere un bicchiere al giorno, gli uomini due, ma soprattutto di qualità. Dottoressa Flacchi, quindi varietà, colore, suddiviso nei 5 pasti, questo numero 5 che ritorna, abbiamo tutto quello che ci serve per mangiare bene, per nutrirci in modo adeguato, per proteggere e preservare la nostra salute e farlo con gusto, ma tutto questo funziona se noi sappiamo scegliere bene, perché a volte mangiamo male perché non sappiamo scegliere, oppure perché andiamo a fare la spesa e la facciamo in modo un pochino troppo affrettato, magari non vogliamo stare ai fornelli o tutto ci sembra un po' faticoso, complicato. Anche qua si può semplificare molto la nostra quotidianità scegliendo bene. Come, dottoressa Flacchi, ci dia due indicazioni. Ecco, è importante leggere le etichette, per esempio, oggi sono molto più chiare rispetto al passato, e per capire anche la provenienza dei nostri alimenti. La qualità è importante, quindi consumare magari meno, ma scegliendo la qualità, anche se ecco, dobbiamo e poi, dottoressa, qualcosina di più. Dottoressa, ecco. Flacchi, come lei racconta nel suo libro, la natura è saggia e ci dà i prodotti giusti al momento giusto. Ci sono gli agrumi, sono in inverno, mangiamoli lì quando abbiamo bisogno della vitamina C per le malattie del raffreddamento. Adesso ci sono altri tipi di frutta e di verdura che sono ricchi di vitamine, di minerali, idratanti, quindi è semplice, se noi seguiamo la natura non sbagliamo. Dottoressa, brava. Flacchi, qualità, stagionalità, ecco, sono, diciamo, importanti in questo periodo. Però, dottoressa Flacchi, noi abbiamo detto è semplice, non dobbiamo complicarci la vita, ma ci sono altri aspetti, altri ingredienti di questa ricetta del benessere: il sonno, lo stress, le relazioni, il cervello, che dobbiamo continuare ad allenarlo. Quindi nel suo libro lei parla anche di queste mosse che non sono strettamente legate alla tavola, ma che insieme promuovono la salute. Passiamo in esame rapidamente? Sì, queste emergono da dati scientifici che rilevano quanto sia importante dormire almeno 7-8 ore per notte, quindi anche il cibo può influenzare un buon sonno, quindi può essere tutto collegato. Gli ultimi studi proprio si basano sulla relazione tra un buon sonno e il sistema immunitario e la riduzione di questi telomeri. Potrete leggere nel libro anche questa interessante informazione che si basa su recentissime ricerche, che possiamo in qualche modo mantenere più lunghi, tra virgolette, per evitare il deterioramento delle nostre cellule. Poi abbiamo il movimento, che è stato scientificamente validato, non deve essere necessariamente una... Non dobbiamo ammazzarci sportiva. Di fatica, dottoressa Flacchi, basta essere e rimanere attivi, brava. I muscoli, ma anche il nostro cervello, perché naturalmente bisogna farlo lavorare, il cervello è lì apposta, a lui piace. Perché la massa muscolare negli anni tendiamo a perderla in modo spontaneo, quindi dobbiamo in qualche modo cercare di camminare finché possibile, finché non abbiamo problemi, almeno quei 40-45 minuti tre volte la settimana, per attivare anche il metabolismo e soprattutto e poi, il sistema immunitario. Tra l'altro, una buona camminata aiuta anche il nostro cervello, così tiriamo in ballo anche lui. E poi, se la facciamo in compagnia, lei nel suo libro sottolinea quanto sia importante la relazione, curare gli affetti, gli scambi con gli altri, le amicizie. Un amico allunga la vita, oltre a rendertela più gradevole. E dottoressa, chiudiamo, l'ultima mossa: investi sull'amore, inteso come altruismo, generosità, disponibilità verso gli altri, ma anche amore, proprio amore, dottoressa, certo. Flacchi. in questo periodo passato abbiamo messo a dura prova sia la mancanza magari della vita sociale della compagnia, ma sicuramente abbiamo potuto investire sull'amore per chi ci stava vicino, dimostrare altruismo, generosità, e questo sono è stato dimostrato anche a livello scientifico, questo atteggiamento è un vero alleato per mantenerci in buona salute. Ecco, vedi. Quindi si può invecchiare meglio bene, investendo anche sull'amore verso gli altri oltre che per noi stessi. Grazie dottoressa Flacchi per essere stata con noi, torni prestissimo a trovarci, le auguro una buona domenica, grazie. Con grande piacere, a presto. Con le mosse giuste noi facciamo una pausa e ritorniamo subito dopo, tra pochissimo, con lo spazio dedicato alle ricerche. Quando arriva la cassa integrazione, dove ritiro i buoni per fare la spesa? Posso sospendere il mutuo e le rette dell'asilo nido? Posso revocare il contratto con il catering del matrimonio? Il coronavirus ha mandato in crisi tutti gli italiani. Mutuo, affitto, bollette, rate e persino la spesa quotidiana per migliaia di persone sono diventati un incubo. Parte così Homo Covid, lo sportello aperto agli ascoltatori che troveranno le risposte di cui hanno bisogno sul sito di Radio 24, in collaborazione con consumerismo.it. Metteremo insieme i vostri quesiti per dare una risposta unica alle domande di tutti. Un prontuario per famiglie e consumatori, lavoratori, liberi professionisti, commercianti e imprenditori. Un canale a cui affidarsi per cercare il supporto necessario ad affrontare una delle crisi più gravi mai vissute prima dal nostro paese. Scrivete a duedidenari@radio24.it e redazione@consumerismo.it. La bufala in tavola. Sono tornata veloce e adesso apriamo lo spazio dedicato ai suggerimenti, alle indicazioni che arrivano dal mondo della ricerca. In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Gabriele Piuri, che è un medico esperto di nutrizione a Milano. Buongiorno dottor Piuri, buona domenica. Buongiorno a tutti, buona domenica. Dottor Piuri, quasi ogni giorno abbiamo notizie di studi che suggeriscono l'effetto protettivo o benefico di un determinato alimento, ma questo non deve portarci a credere che ci siano alimenti dotati di superpoteri. È sempre la squadra, mi passi il termine, squadra intesa come insieme di sostanze ottenuto dal consumo di alimenti diversi all'interno di una dieta varia ed equilibrata, che fa la differenza, è corretto? Insomma, anche se ci piacerebbe, dottor Piuri, ormai abbiamo capito che l'alimento magico non esiste, o almeno non è ancora stato trovato. Gli alimenti magici non esistono, questo di sicuro. Come dicevamo, è importante la squadra, inteso sia come alimentazione sia anche come stile di vita, e questo fa tanto la differenza. D'altra parte è vero che la scienza sempre di più si sta accorgendo che tutta una serie di alimenti sono importanti indipendentemente dal loro contenuto di carboidrati, di proteine, di grassi, e che in realtà possono contenere delle molecole che di per sé non hanno un potere calorico, di cui ci siamo occupati poco, che in realtà fanno molto bene alla salute. Tutti questi sono chiamati con nomi difficili, sono i polifenoli, le antocianoside, le epigallocatechine gallate, che sono nomi difficili, per dire in realtà, per identificare in realtà tutte quelle molecole che danno il colore alla frutta e alla verdura. Ecco, quello zic, come si dice, che ci fa bene, un po' come quelle persone che si dice, guarda, non so, a un certo non so che, quella persona esatto. Non è tanto la bellezza, non è perché, non so, è bionda, gli occhi blu, ma un non so che, ecco, quel non so che però voi, la ricerca naturalmente, a questo non so che ha dato un nome, anche un ruolo, una funzione. Fatta questa doverosa premessa, dottor Piuri, andiamo un po' a leggere i risultati di alcuni studi che evidenziano appunto l'effetto protettivo e preventivo di alcuni alimenti, e nello specifico parliamo di bevande, di tè e di caffè, che devo dire piacciono molto ai ricercatori, probabilmente perché ne fanno anche loro come noi un uso abbastanza frequente, quindi abbondante, ma perché fanno bene, solo per quello. Effettivamente uno studio pubblicato su Advanced Nutrition, che è una rivista abbastanza prestigiosa in ambito generale, è andata a rivedere tutto quanto l'aspetto legato alla dieta mediterranea. Che la dieta mediterranea faccia bene e che aiuti a far funzionare il cervello nella maniera corretta, che protegga il cuore, è già ben definito. Quello che in realtà hanno fatto i ricercatori tedeschi è che sono andati a cercare di analizzare quale delle tante componenti della dieta mediterranea abbia un effetto più protettivo per prevenire malattie degenerative come l'Alzheimer, come il Parkinson. Sì. E sono usciti dei risultati molto interessanti, nel senso che il tè, soprattutto il tè verde, ma in generale il tè, ha un'azione protettiva per quanto riguarda in realtà il declino cognitivo, quindi aiuta il cervello a funzionare bene. Più a lungo. E il dato interessante è che non serve bere litri e litri di tè, nel senso che basta un consumo moderato di 2-3 tazze al giorno. Ecco, mi è piaciuto perché lei ha sottolineato, perché noi quando leggiamo che qualcosa ci fa bene tendiamo a consumarne tanto, no? Quasi ci facciamo il bagno, quindi non è necessario affogarsi dentro il tè, che sia verde o non verde. Assolutamente, dottor Piuri. La maggior parte di questi studi sono fatti in realtà a livello osservazionale, cioè si vede cosa succede nella popolazione per molti anni, e la popolazione, magari c'è una singola persona che fa un uso eccessivo di un alimento, ma la maggior parte delle persone li usa normalmente, quindi certo. Non servono mega dosaggi di alimenti che poi in realtà rischiano di darci fastidio. Certo. Lo stesso per quanto riguarda il caffè, che invece si è dimostrato utile per proteggerci dal rischio Parkinson, che è un altro aspetto da tenere in considerazione. Anche qui non servono litri e litri di caffè, bastano un 3-4 caffè al giorno effettivamente per avere una riduzione del rischio di questa patologia. E il vantaggio di tutto questo è che purtroppo tutto quest'ambito non ha grandissime cure, non siamo ancora così capaci di curare queste malattie, e quindi diventa ancora più importante la prevenzione. Assolutamente. Dottor Piuri, ci piace sempre tradurre con indicazioni e consigli pratici quelli che sono i suggerimenti che arrivano dagli studi e dalle ricerche. Il consiglio quindi? Il consiglio è di bere 2-3 tazze di tè, 2-3 tazze di caffè al giorno, secondo un po' dei propri gusti, cercando magari di variare non soltanto il caffè, non soltanto il tè, facendo un po' attenzione anche al proprio modo, al proprio sentire. Ci sono persone che ad esempio fanno fatica a bere il caffè troppo tardi la sera, perché poi non dormono, certo. Poi rischia di diventare problematico. L'aspetto positivo è che le molecole che ci proteggono in realtà non sono la caffeina. Quindi anche andare a utilizzare un caffè decaffeinato fatto come si deve ha comunque lo stesso effetto protettivo, senza però disturbarci il sonno. E lo stesso vale per il tè, in cui magari possiamo utilizzare nella prima parte della giornata. Dottor Piuri, ma quelli del tè non sono gli unici composti vegetali che ci fanno bene, che hanno a cuore ad esempio la salute del nostro cuore? Anche i frutti rossi sono molto studiati, piacciono parecchio, anche i frutti rossi. Anche i frutti rossi. E piacciono more, anche a noi. Adesso ci sono le fragole. Le fragole adesso ci sono tantissime. Ed effettivamente un articolo pubblicato sul British Journal of Nutrition, una delle riviste più importanti in ambito nutrizionale, è andato a dimostrare che un consumo, anche qui, abbondante ma non eccessivo, nel senso che nello studio si parla di 2-3 etti di fragole al giorno, che quando ci sono le fragole è un attimo, non so come dire. È un attimo, perché è un po' come le ciliegie. Quando sono mature, si vero. Trovano bene, sono profumate. Una tira l'altra. Non si vedono neanche. Svolgono un'ottima azione antinfiammatoria, e questo è abbastanza tipico di tutti quanti i polifenoli. Il vantaggio di tutto questo è che ridurre l'infiammazione aiuta a far funzionare meglio il cuore, e quindi lo protegge. Quindi più fragole, meno infiammazione. Perché l'infiammazione ormai è stato dimostrato ed è entrato anche un po' nei nostri discorsi a casa, in famiglia. L'infiammazione è una sorta di denominatore comune di molte malattie cronico-degenerative. È proprio il meccanismo patologico con cui l'organismo risponde a una situazione che non va. Solo che se da un lato l'infiammazione è utile per riparare, per intenderci, se ho una ferita, se non avessi infiammazione non andrei a riparare questa ferita. Il problema è quando l'infiammazione diventa cronica e continua a perdurare nel tempo. Il problema è che a quel punto comincia a portare essa stessa dei danni all'organismo. Certo. E soprattutto quando parliamo del cuore, un'infiammazione cronica continua e costante tende in realtà a metterlo a rischio, e quindi il rischio poi col tempo di ammalarci. Non è la singola infiammazione di un momento che è problematica, quando questa infiammazione perdura nel tempo diventa cronica, e il tè ci aiuta a ridurre questo aspetto. Quindi, volendo suggerire una ricettina, che naturalmente non è una ricetta magica, non basta a cambiare la situazione, ma un tè ai frutti rossi? Che dice? Un tè al frutti rossi potrebbe andare molto molto bene. Perché caffè con le fragole, secondo non viene me, non, no, no, diventa però un po'... secondo me un frullato con le fragole, un goccio di caffè, probabilmente non fa male. Lei si candida anche un po' come anche lei, come cuoco, come un medicuoco? Guardi che allora la mettiamo in gara con il dottor Erzegovesi, vediamo, con questa, va bene, proposta un po' azzardata. Dottor Piuri, io la ringrazio per essere con noi, stato con noi, le auguro una buona domenica, grazie. Grazie mille, buona domenica a tutti, grazie. Io vi invito a pranzo tutte le domeniche alla tavola della Bufala in Tavola. Si sta lontani ma vicini, divisi ma uniti. Ne abbiamo parlato tante volte, ma adesso, con tutte le dovute attenzioni e precauzioni, possiamo finalmente sedersi con le dovute distanze intorno al tavolo di casa nostra, non solo più con i congiunti ma anche con gli amici. Finalmente les amis! E in linea con noi un grande amico della nostra trasmissione, Giorgio Donegani, tecnologo alimentare ed esperto di nutrizione. Dottor Donegani, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Dottor Donegani, qua abbiamo bisogno di lei. Perché? Perché, insomma, l'abbiamo detto anche in apertura di trasmissione, le relazioni sono fondamentali, sono un ingrediente prezioso della nostra salute. Ricominciamo a vedere gli amici, ma l'invito a cena o a pranzo a casa degli amici dopo questa emergenza può crearci qualche problemino, insomma magari non sappiamo bene come comportarci. Allora, dottor Donegani, lei stia con noi facciamo una pausa e lei subito dopo la pausa ci dirà tutte le attenzioni, le precauzioni, le cose che dobbiamo fare o che è meglio evitare quando invitiamo a pranzo o a cena gli amici, o a nostra volta siamo invitati, perché insomma gli inviti si ricambiano. A tra poco. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Un po' di... meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22:30 e la domenica alle 14 su Radio 24. La bufala in tavola. Pensate di invitare amici a casa? O siete stati invitati da amici a pranzo o a cena? Come bisogna comportarsi? Che cosa bisogna fare o non fare? Bene, le regole sono tutte da riscrivere, vietato improvvisare, per questo abbiamo chiesto ad un amico, Giorgio Donegani, tecnologo alimentare, di darci qualche dritta. Allora, dottor Donegani, da che cosa cominciamo? Gli inviti li abbiamo fatti, apparecchiamo la tavola? Sì, direi che quello è fondamentale, non farsi trovare impreparati con la tavola ancora da apparecchiare. E qui la prima regola ovviamente è quella di disporre i posti a tavola cercando di mantenere delle distanze ragionevoli. L'ideale sarebbe un metro di distanza, ma dove non si può comunque evitare il contatto stretto. E qui a volte si va anche un po' contro quella che è la nostra abitudine naturale. Per esempio, se io ho un tavolo rettangolare da 4, naturalmente metterei, proprio per stare più vicini, 2 da una parte e 2 dall'altra sui lati più lunghi. Invece in questo caso dobbiamo sfruttare tutti e 4 i lati del tavolo, in modo che all'estremità si sia tutti più lontani. Questa una cosa... Io ad esempio, che un tavolo rotondo, come faccio? E beh, lì la geometria ci aiuta, tiri proprio un diametro in verticale e l'altro in orizzontale in modo che siamo paralleli e all'estremità. In quanto, siamo a posto. Ecco, il numero è importante anche dei convitati, ovviamente. Direi che la cosa migliore, a meno che non si abbia un tavolo veramente enorme, ma poi c'è il fatto che la lontananza rende difficile chiacchierare, direi che per i primi inviti 4 è il numero perfetto. Direi di sì, è anche facile, no? Preparare un menù per 4, più facile. Sì, direi di meglio, sì. Meglio sfruttare magari un terrazzino, un terrazzo, un piccolo giardino, un fazzoletto, insomma, all'aperto. All'aperto le aiuta. Possibilità di contagio diminuiscono drasticamente. Al chiuso, se non altro, ecco una cosa, è ancora presto, però con i cambi di clima che ci sono, magari evitare di posizionarsi proprio sotto l'aria condizionata, così. Questo come linea di massima. Poi sulla tavola che cosa ci mettiamo? Ci mettiamo rigorosamente i tovaglioli usa e getta, sì. Per questa volta va bene così. E anzi mettiamone anche tanti, perché più ci si pulisce. E magari una cosa che non è bellissima da vedere, però quando mi dice già utile, così lo so perché, già non mi piace, però me la dica. Però tenere a portata di mano un paio di confezioni di igienizzante, in modo che se così, quello delle mani, no? Che con discrezione uno può prendere, certo. Pulirsele così è una buona regola. E poi ecco una cosa un importante. Tempo ci passavamo l'olio, passami il ma sale, guarda, eccetera. Rispetto proprio a questa cosa, no? Del passarsi, poi vedremo che bisogna limitare al massimo i movimenti sulla tavola. E in questo senso magari un'attenzione anche ai bicchieri. Capita di, dopo i brindisi, di scambiarli e dire ma di chi era questo? Così, ecco, è da evitare. E nel caso uno avesse bicchieri di diverso colore o diversa forma in casa, aiutano. È un'occasione, sì, per rinunciare a quell'omogeneità che ci piace tanto, ma bicchieri di diversi, come dire, personalizzati, sono utili anche in questo caso. Quindi, ecco. Dottor Donegani, lei ci fa tutti sedere a tavola, tutti seduti, evitare confusione, e quindi i buffet, le cene in piedi, quelle che no, organizzavano, ma dai, alla domenica mangiamo qualcosa, ognuno porta qualcosa, lo mettiamo lì sul tavolo, poi No. Proprio la cosa da evitare, ma sono da evitare anche gli antipasti classici, no? Sì. Il vassoio di formaggi e salumi che si fanno girare con le posate di servizio che poi toccano tutti, no? Questo da evitare. In linea di massima, se si può far trovare già a ciascun posto il cibo già predisposto, è meglio. Sì. Vale per le varie portate, che è bene sia la padrona o il padrone di casa a preparare in cucina e poi servirli direttamente già impiattate ai commensali. Vale anche per il pane, per esempio. Il pane, come si fa nei ristoranti, mettiamo un piattino, va bene anche i piattini da caffè se non ne abbiamo altri, vicino al piatto principale e ci mettiamo dentro una porzione di pane. Hai capito, però qualche cosa gli daremo anche da mangiare, no questo, no l'altro, facciamo anche un menù che almeno renda questo incontro un po' particolare, insomma abbiamo visto che le regole cambiano, un menù che insomma sia all'altezza della situazione. Ci facciamo aiutare da Sonia Peronacci, cuoca, scrittrice, presentatrice, blogger italiana, fondatrice, come sapete, del sito Giallo Zafferano, ora soniaperonacci.it. Ciao Sonia! Buongiorno, buongiorno, ma io ho sentito il Donegani praticamente... Non ci fa fare quasi nulla! No, però sono molto, molto intelligenti e molto, diciamo, utili le sue spiegazioni. Effettivamente tante volte magari una persona non ci pensa, no? A quello che può succedere, invece in questo caso abbiamo delle indicazioni ben precise. Quindi io direi che anche in cucina si debba procedere in questo modo. Quindi la padrona di casa in questo caso preparerà dei piattini con appunto dentro ogni portata individuale e quindi niente da pescare insieme, quindi la convivialità un po' ce la scordiamo per un po' di tempo, però diciamo che si può assolutamente procedere in questo modo. Sporcheremo un pochino più di stoviglie, però diciamo che ce la si può fare. Ce la si può fare, ma soprattutto se tu ci dai una mano, magari ci suggerisci qualche cosina di sfizioso. Abbiamo visto tutte porzioni, tutti impiattamenti, possiamo quindi ovviare il problema del servizio dove tutti toccano le posate nello scambio, quindi ma che cosa ci facciamo di buono in questo menù, che deve essere un po' speciale, perché apriamo la casa ai nostri amici, pochi, dottor Donegani, distanziati con l'igienizzante di fianco, ma Sonia, ci vuole allora, un po' guarda, di quel che ci vuole, no? Ecco. Sì, sì, ma voglio dire, adesso veramente si possono preparare piatti tra i più disparati. Se vogliamo rimanere sul pesce, è una cosa simpatica che ho fatto anch'io recentemente, che è anche molto utile per la padrona di casa, perché può preparare tutto prima e mettere in forno quando è il momento, un quarto d'ora di cottura, e preparare per esempio dei filetti di pesce, qualsiasi tipo piaccia, per esempio può essere salmone, può essere branzino, orata, al cartoccio, con dentro per esempio ingredienti molto mediterranei, che possono essere pomodorini, lo spicchietto d'aglio, la scorza del limone, il timo, il prezzemolo, un filo d'olio. Questi si chiudono proprio a pacchetto e si cuociono. Monoporzione, perfetto. Monoporzione, e poi si possono mettere con il pacchetto ancora chiuso su ogni piattino, poi l'insalatina d'accompagnamento. A me piace moltissimo per esempio fare insalata un po' la siciliana con i finocchi, le olive infornate, l'arancia, il pompelmo, insomma, questa è molto fresca, accompagna. E poi la pasta, se vogliamo fare un primo, vabbè, quello ovviamente anche lì può essere molto a discrezione, però io uso spesso i pesti, per esempio, che può essere un pesto alla trapanese, che può essere anche un pesto di zucchine, con le zucchine crude, per esempio, molto fresco, e due magari qualche pesciolino di accompagnamento, quindi si fa un buono pesto. Ma Sonia, ma mi inviti a pranzo, scusami, vorrei certo, dire vengo vuoi. Anche con Giorgio Donegani. Senti, assolutamente, che io so essere una buona forchetta, sì. Da molta soddisfazione Giorgio, tavola. Allora quindi lanciamo un appello: volete invitare il dottor Donegani, però preparatevi soprattutto a seguire tutte le indicazioni, perché mangia ma anche vuole il rispetto di tante regole, regoline. Dottor Donegani, noi come ci presentiamo a casa di Sonia Peronacci? Con la mascherina? Beh sì, con certo. La mascherina. E lei come ci riceve? Con la mascherina? Ma al momento di ricevere sì. Poi la cosa che mette giù la maschera, io ho notato, no? È l'incertezza. Se le regole sono chiare, no? E qui la padrona di casa a questo punto ha un po' il compito di guidare l'invitato, no? Su un percorso che rende tutto più naturale, pur nell'estrema innaturalità della situazione, come dire. Perché a questo punto si chiariscono le regole, dice la mascherina a tavola la togliamo ovviamente, perché sarebbe diventa anche un po' difficile mangiare così. Però se dobbiamo muoverci o abbiamo l'esigenza di metterci più vicini, un po' come si deve fare al ristorante. Bravo, no? Così. La rimettiamo. Questa è la prima cosa. Poi se si trova subito, no? Sul discorso delle scarpe, io francamente trovo imbarazzante obbligare a togliere le scarpe e metterle lì, anche perché la contaminazione a livello del pavimento veramente è... Un po' dipende un po' dalla confidenza. Sì, ecco, però in linea di massima non è la prima cosa da adottare, mentre quello che è importante poi è la pulizia delle mani. Sì. Anche solo il fatto di toccare la porta per entrare, ok, a quel punto mettiamo fuori dalla porta esattamente un igienizzante come nei negozi, come nei ristoranti. Le regole sono un pochino uguali. Quelle. E dottor Donegani, facciamo un saltino in bagno: salviette monouso, sì, sapone liquido, quella cosa più normale, cioè più utile. Le salviette monouso, le salviette monouso, quelle in panno di carta, così sono perfette. Ovviamente predisponiamo il posto dove buttarle, perché certo, se no poi dovesse mettere in tasca, ecco. Allora vedi Sonia, noi siamo preparati, aspettiamo solo l'invito. Grazie a Sonia Peronacci. Dottor Donegani, magari ci va bene e andiamo. Io mi presento, mascherina, guantini, igienizzante, lo porto anche da casa, mi tolgo pure le scarpe. Ringrazio Roberta Frisani, regia la parte tecnica, e Laura Vanossi in assistenza in redazione. Vi do come sempre appuntamento a domani, dopo il primo GR della mattina, quello delle 6, di nuovo noi insieme. Obiettivo salute, risveglio, per partire insieme per una nuova settimana.